L'arresto dell'abate non portò alcun pregiudizio ai progressi dell'educazione di Cosimo. È da quell'epoca che è data la sua corrispondenza epistolare coi maggiori filosofi e scienziati d'Europa, cui egli si rivolgeva perché gli risolvessero quesiti e obiezioni, o anche solo per il piacere di discutere con gli spiriti migliori e in pari tempo esercitarsi nelle lingue straniere. Peccato che tutte le sue carte, che egli riponeva in cavità d'alberi a lui solo note, non si siano mai ritrovate, e certo saranno finite rose dagli scoiattoli o ammuffite. Vi si troverebbero lettere scritte di pugno dai più famosi sapienti del secolo. Per tenere i libri, Cosimo costruì a più riprese delle specie di biblioteche pensili, riparate alla meglio dalla pioggia e dai roditori. Ma cambiava loro continuamente di posto, secondo gli studi e i gusti del momento, perché egli considerava i libri un po' come degli uccelli e non voleva vederli fermi o ingabbiati, se no diceva che intristivano. Sul più massiccio di questi scaffali aerei allineava i tomi dell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, man mano che gli arrivavano da un libraio di Livorno. E se negli ultimi tempi, a forza di stare in mezzo ai libri, era rimasto un po' con la testa nelle nuvole, sempre meno interessato del mondo intorno a lui, ora invece la lettura dell'enciclopedia, certe bellissime voci come abeille, arbre, bois, jardin, gli facevano riscoprire tutte le cose intorno come nuove. Tra i libri che si faceva arrivare, cominciarono a figurare anche manuali d'arti e mestieri, per esempio d'arboricoltura, e non vedeva l'ora di sperimentare le nuove cognizioni. A Cosimo era sempre piaciuto stare a guardare la gente che lavora, ma finora la sua vita sugli alberi, i suoi spostamenti, le sue cacce, avevano sempre risposto a estri isolati e ingiustificati, come fosse un uccelletto. Ora invece lo prese il bisogno di far qualcosa di utile al suo prossimo. E anche questa, a ben vedere, era una cosa che aveva imparato nella sua frequentazione del brigante. Il piacere di rendersi utile, di svolgere un servizio indispensabile per gli altri. Imparò l'arte di potare gli alberi e offriva la sua opera ai coltivatori di frutteti, l'inverno, quando gli alberi protendono irregolari labirinti di stecchi e pare non desiderino che d'essere ridotti in forme più ordinate per coprirsi di fiori e foglie e frutti. Cosimo potava bene e chiedeva poco. Così non c'era piccolo proprietario o fittavolo che non gli chiedesse di passare da lui, e lo si vedeva nell'aria cristallina di quelle mattine, ritto a gambe larghe sui bassi alberi nudi, il collo avvoltolato in una sciarpa fino alle orecchie, alzare la cesoia e, zac, zac, a colpi sicuri, far volare via rametti secondari e punte. La stessa arte usava nei giardini, con le piante d'ombra e d'ornamento armato d'una corta sega, e nei boschi, dove all'ascia dei taglialegna, buona soltanto ad accozzare colpi al piede d'un tronco secolare per abbatterlo intero, cercò di sostituire la sua sveltaccetta, che lavorava solo sui palchi e sulle cime. Insomma, l'amore per questo suo elemento arboreo seppe farlo diventare, com'è di tutti gli amori veri, anche spietato e doloroso, che ferisce e recide per far crescere e dar forma. Certo, egli badava sempre, potando e disboscando, a servire non solo l'interesse del proprietario della pianta, ma anche il suo, di viandante che ha bisogno di rendere meglio praticabili le sue strade. Perciò faceva in modo che i rami che gli servivano da ponte tra una pianta e l'altra fossero sempre salvati e ricevessero forza dalla soppressione degli altri. Così questa natura d'ombrosa che gli aveva trovato già tanto benigna, con la sua arte contribuiva a farla vie più a lui favorevole, amico un tempo del prossimo, della natura e di se medesimo. E i vantaggi di questo saggio operare godette soprattutto nell'età più tarda, quando la forma degli alberi sopperiva sempre di più alla sua perdita di forze. Poi bastò l'avvento di generazioni più scriteriate, d'imprevidente avidità, gente non amica di nulla, neppure di se stessa. E tutto ormai è cambiato. Nessun Cosimo potrà più incedere per gli alberi. Se il numero degli amici di Cosimo cresceva, egli si era pure fatto dei nemici. I vagabondi del bosco, infatti, dopo la conversione di Gian dei Brughi alle buone letture e la successiva sua caduta, s'erano trovati a mal partito. Una notte, mio fratello dormiva nel suo otere appeso a un frassino nel bosco, quando lo svegliò un abbaio del bassotto. Aperse gli occhi e c'era luce. Veniva dal basso, c'era fuoco proprio ai piedi dell'albero e le fiamme già lambivano il tronco. Un incendio nel bosco! Chi l'aveva appiccato? Cosimo era ben certo di non aver nemmeno battuto l'acciarino quella sera. Dunque era un tiro di quei malviventi. Volevano dare alle fiamme il bosco per far razzia di legna e nello stesso tempo per far sì che la colpa ricadesse su Cosimo. Non solo, ma bruciarlo vivo. Sul momento Cosimo non pensò al pericolo che minacciava lui così dappresso. Pensò che quello sterminato regno pieno di vie e rifugi solo suoi poteva essere distrutto e questo era tutto il suo terrore. Ottimo Massimo già scappava via per non bruciarsi, voltandosi ogni tanto a lanciare un latrato disperato. Il fuoco si stava propagando al sottobosco. Cosimo non si perse d'animo. Sul frassino, dove allora era il suo rifugio, aveva trasportato, come sempre faceva, molte cose. Tra queste, una botticella piena d'orzata per placare la sete estiva. S'arrampicò fino alla botticella. Per i rami del frassino fuggivano gli scoiattoli e le nottole in allarme, e dai nidi volavano via gli uccelli. Afferrò la botticella e stava per svitarne la spina e bagnare il tronco del frassino per salvarlo dalle fiamme, quando pensò che l'incendio già si stava propagando all'erba, alle foglie secche, agli arbusti, e avrebbe preso tutti gli alberi intorno. Decise di rischiare. «Bruci pure il frassino. Se con questa orzata arrivo a bagnare per terra tutto intorno, dove le fiamme non sono ancora arrivate, io fermo l'incendio». E aperta la spina della botticella, con spinte ondeggianti e circolari, diresse il getto sul terreno, sulle lingue di fuoco più esterne, spegnendole. Così il fuoco nel sottobosco si trovò in mezzo a un cerchio d'erbe e foglie bagnate e non poté più espandersi. Dalla cima del frassino, Cosimo saltò su di un faggio lì vicino. Aveva fatto appena appena in tempo. Il tronco arso alla base precipitava in un rogo di schianto tra i vani squittii degli scoiattoli. L'incendio si sarebbe limitato a quel punto? Già un volo di scintille e fiammelle si propagava intorno. Certo, la labile barriera di foglie bagnate non gli avrebbe impedito di propagarsi. «Al fuoco! Al fuoco!» cominciò a gridare Cosimo con tutte le sue forze. «Al fuoco!» «Che c'è? Chi grida?» rispondevano delle voci. Non lontano da quel luogo c'era una carbonaia e una squadra di bergamaschi e suoi amici dormivano là in una baracca. «Al fuoco! Allarme!» Presto tutta la montagna risuonò di grida. I carbonai sparsi per il bosco si davano la voce nel loro dialetto incomprensibile. Ecco che accorrevano da ogni parte. L'incendio fu domato. Questo primo tentativo di incendio doloso ed attentato alla sua vita avrebbe dovuto ammonire Cosimo a tenersi lontano dal bosco. Invece cominciò a preoccuparsi di come ci si poteva tutelare dagli incendi. Era l'estate d'un'annata di siccità e calura. Nei boschi della costa, dalla parte della Provenza, ardeva da una settimana un incendio smisurato. Alla notte se ne scorgevano i bagliori alti sulla montagna come un rimasuglio di tramonto. L'aria era asciutta, piante e sterpi nell'arsura erano una sola grande esca. Pareva che i venti propagassero le fiamme verso le nostre parti, seppur mai prima non fosse scoppiato qui qualche incendio, casuale o doloso, ricongiungendosi con quello in un unico rogo lungo tutta la costa. Ombrosa viveva attonita sotto il pericolo, come una fortezza dal tetto di paglia assalita da nemici incendiari. Il cielo pareva non immune da questa carica di fuoco. Ogni notte stelle cadenti trascorrevano fitte in mezzo al firmamento e ci si aspettava di vederle piombare su di noi. In quei giorni di sbigottimento generale, Cosimo fece incetta di barilotti e li issò pieni d'acqua in cima alle piante più alte situate in luoghi dominanti. A poco, ma a qualcosa si è visto che possono servire. Non contento, studiava il regime dei torrenti che attraversavano il bosco, mezzo secchi com'erano, e delle sorgenti che mandavano solo un filo d'acqua. Andò a consultare il cavaliere avvocato. «Ah, sì!» esclamò Enea Silvio Carrega battendosi una mano sulla fronte. «Bacini! Dighe! Bisogna fare dei progetti!» e scoppiava in piccoli gridi e saltelli d'entusiasmo, mentre una miriade di idee gli si affollavano alla mente. Cosimo lo mise sotto a fare calcoli e disegni e intanto interessò i proprietari dei boschi privati, gli appaltatori dei boschi demaniali, i taglialegna, i carbonai, tutti insieme sotto la direzione del cavaliere avvocato, ossia il cavaliere avvocato sotto tutti loro, forzato a dirigerli e a non distrarsi, e con Cosimo che sovrintendeva i lavori dall'alto, costruirono delle riserve d'acqua, in modo che in ogni punto in cui fosse scoppiato l'incendio si sapesse dove far capo con le pompe. Ma non bastava, bisognava organizzare una guardia di spegnitori, squadre che in caso d'allarme sapessero subito disporsi a catena per passarsi di mano in mano secchi d'acqua e frenare l'incendio prima che si fosse propagato. Ne venne fuori una specie di milizia che faceva turni di guardia e ispezioni notturne. Gli uomini erano reclutati da Cosimo tra i contadini e gli artigiani d'Ombrosa. Subito, come succede in ogni associazione, nacque uno spirito di corpo, un'emulazione tra le squadre e si sentivano pronti a fare grandi cose. Anche Cosimo si sentì una nuova forza e contentezza. Aveva scoperto una sua attitudine ad associare la gente e a mettersi alla loro testa. Attitudine di cui, per sua fortuna, non fu mai portata ad abusare e la mise in opera soltanto pochissime volte in vita sua, sempre vista di importanti risultati da conseguire e sempre riportando dei successi. Capì questo, che le associazioni rendono l'uomo più forte, e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia, che raramente sa restando per proprio conto, di vedere quanta gente c'è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone. Mentre vivendo per proprio conto capita più spesso il contrario, di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna tenere sempre la mano alla guardia della spada. Dunque, questa degli incendi fu una buona estate. C'era un problema comune che stava a cuore a tutti di risolvere e ciascuno lo metteva avanti agli altri i suoi interessi personali. E di tutto lo ripagava la soddisfazione di trovarsi in concordia e stima con tante altre ottime persone. Più tardi, Cosimo dovrà capire che quando quel problema comune non c'è più, le associazioni non sono più buone come prima e val meglio essere un uomo solo e non un capo. Ma per intanto, essendo un capo, passava le notti tutto solo nel bosco, di sentinella, su un albero, come era sempre vissuto. Se mai vedeva fiammeggiare un focolaio d'incendio, aveva predisposto sulla cima dell'albero una campanella che poteva essere sentita di lontano e dar l'allarme. Con questo sistema, 3 o 4 volte che scoppiarono incendi, riuscirono a domarli in tempo e a salvare i boschi. E poiché ventrava il dolo, scoprirono i colpevoli in quei 2 briganti di Ugasso e Bello Re e li fecero bandire dal territorio del comune. A fine d'agosto cominciarono gli acquazzoni. Il pericolo degli incendi era passato. In quel tempo non si sentiva che dir bene di mio fratello Ombrosa. Anche a casa nostra giungevano queste voci favorevoli, questi «Però, è così bravo! Però, certe cose le fa bene!» Col tono di chi vuole fare apprezzamenti obiettivi su una persona di diversa religione o di partito contrario e vuol mostrarsi di mente così aperta da comprendere anche le idee più lontane dalle proprie. Le reazioni della generalessa a queste notizie erano brusche e sommarie. «Hanno armi?» chiedeva, quando le parlavano della guardia contro gli incendi messa insieme da Cosimo. «Fanno gli esercizi?» perché lei già pensava alla costituzione di una milizia armata che potesse, nel caso di una guerra, prendere parte a operazioni militari. Nostro padre, invece, stava a sentire in silenzio, scuotendo la testa, che non si capiva se ogni notizia su quel figlio gli giungesse dolorosa o se invece annuisse, toccato da un fondo di lusinga, non aspettando altro che di poter tornare a sperare in lui. Doveva essere così, a quest'ultimo modo, perché dopo qualche giorno montò a cavallo e andò a cercarlo. Fu un luogo aperto dove si incontrarono, con una fila d'alberelli intorno. Il barone girò il cavallo in su e in giù 2 o 3 volte, senza guardare il figlio, ma l'aveva visto. Il ragazzo, dall'ultima pianta, salto a salto, venne su piante sempre più vicine. Quando fu davanti al padre, si cavò il cappello di paglia, che d'estate sostituiva al berretto di gatto selvatico, e disse «Buongiorno, signor padre». «Buongiorno, figlio. Stai là bene?» compatibilmente agli anni e ai dispiaceri. «Godo di vederla valente. Così voglio dire di te, Cosimo. Ho sentito che ti adoperi per il vantaggio comune. Ho a cuore la salvaguardia delle foreste dove vivo, signor padre. Sai che un tratto del bosco è di nostra proprietà, ereditato dalla tua povera nonna Elisabetta, buon'anima? Sì, signor padre. In località Berrio vi crescono 30 castagni, 22 faggi, 8 pini e un acero. Ho copia di tutte le mappe catastali e appunto come membro di famiglia proprietaria di boschi che ho voluto consociare tutti gli interessati a conservarli». «Già», disse il barone, accogliendo favorevolmente la risposta, ma aggiunse «mi dicono che sia un'associazione di fornai, ortolani e maniscalchi». «Anche, signor padre, di tutte le professioni, purché oneste. Tu sai che potresti comandare alla nobiltà vassalla col titolo di duca? So che quando ho più idee degli altri... do agli altri queste idee, se le accettano. E questo è comandare. E per comandare, oggigiorno, s'usa star sugli alberi», aveva sulla punta della lingua il barone. Ma che valeva tirare ancora in ballo quella storia? Sospirò, assorto nei suoi pensieri. Poi si sciolse la cinta cui era appesa la sua spada. «Hai 18 anni. È tempo che ti consideri un adulto. Io non avrò più molto da vivere». E reggeva la spada piatta con le 2 mani. «Ricordi d'essere barone di Rondò?» «Sì, signor padre, ricordo il mio nome». «Vorrei essere degno del nome e del titolo che porti. Cercherò d'essere più degno che posso del nome d'uomo e lo sarò così d'ogni suo attributo. Tieni questa spada, la mia spada». S'alzò sulle staffe, Cosimo s'abbassò sul ramo e il barone arrivò a cingergliela. «Grazie, signor padre. Le prometto che ne farò buon uso. Addio, figlio mio». Il barone voltò il cavallo diede un breve tratto di redini, cavalcò via lentamente. Cosimo stette un momento a pensare se non doveva fargli il saluto con la spada. Poi rifletté che il padre gliel'aveva data perché gli servisse da difesa, non per fare delle mosse da parata, e la tenne nel fodero.